Pronto, ci dovremmo essere. Federico? Pronto? Ci sei? Pronto? Sì. Ciao. Ci sei. Mi senti bene? Vuoi che modifichi i livelli? Come andiamo? Io penso sia tutto a posto, sento tutto abbastanza bene. Tutto a posto. Va bene, allora, ci vogliamo presentare e vogliamo presentare pure un po' la serata che ci sarà al The Frag sabato 12 maggio, fra cui te e la vostra band sarete fra i protagonisti. Sì, certo, allora, va bene, vi parlo un po' in generale della serata, quindi. Allora, certamente. Io sono Federico, il batterista dei Barbed Wire, una delle band che il 12 suonerà al The Frag, una serata in sottoscrizione della Radio Onda Rossa. E abbiamo le altre band, saranno gli Almairata e Pax Armata, diciamo che. Che sentiremo fra poco. Sì, esatto. E diciamo che siamo tutte band che giriamo intorno all'alternative metal, alternative rock, quindi abbiamo qualcosa in comune, ognuna con sound proprio. Speriamo di farvi divertire. Sì, con il proprio piacere di suonare. Ma vi conoscete già da parecchio tempo? Avete fatto già altre date o comunque insomma nel giro come band andate un po' su binari paralleli, insomma, in qualche maniera? E alle volte. Allora, noi Barbed Wire con gli Almairata abbiamo già suonato, ci siamo conosciuti una serata che abbiamo suonato insieme. Mm-hmm. E con i Pax Armata non abbiamo mai condiviso il palco, però da quello che so, non vorrei sbagliarmi, gli Almairata e i Pax Armata già si conoscono comunque, sì, da tempo, sì. Quindi diciamo bene o male sì. Sì, a tutti, se non fratelli, cugini, insomma. Cosa? Dico, se non si è fratelli, perlomeno si è cugini, ecco. Esatto. Esatto. Senti, e forse c'è pure qualcos'altro in comune, cioè anche, vabbè, a parte il fatto appunto di voler in qualche maniera dare il vostro sostegno alla radio, di cui vi ringraziamo, in questa, facendo le cose che sapete fare essenzialmente, che è un po' la cosa più bella che ci piace di ricevere, il regalo più importante che ci piace di ricevere, però forse c'è anche... Cosa? No, dicevo, forse c'è anche qualcosa di più, cioè anche una certa attitudine in cui appunto la radio poi c'entra, perché fare un regalo in qualche maniera alla radio significa dimostrargli un affetto e un sostegno per quello che la radio produce. C'è anche un'attitudine, diciamo, a perlomeno a manifestare un certo disagio a stare in questo tipo di società, ecco, nei vostri testi, certo, e nel vostro modo di suonare. Quello assolutamente, infatti, vabbè, siamo orgogliosissimi, diciamo, per una serata per Radio Onda Rossa, perché comunque rappresenta, diciamo, una mentalità e un certo tipo di pensiero e di, diciamo, anche di sottocultura che per quanto riguarda noi ci appartiene, diciamo. Quindi, diciamo, il mondo della musica indipendente comunque è legato per noi a questo. E, diciamo, è un suono che parte dal basso, almeno per quanto riguarda noi. Non come strumento musicale, ma come proprio luogo, esatto, sociale. Esatto. Dunque, voi suonate da un paio d'anni, a quanto ho capito, e tra l'altro questo qui del concerto del The Frag dovrebbe essere anche un po' la presentazione, o già ne avete fatto del disco, dell'EP che avete prodotto abbastanza di recente, credo. Sì, allora, esatto, abbiamo fatto uscire questo EP a gennaio. Abbiamo fatto dei live dopo l'uscita dell'EP, però erano live in cui ancora non avevamo le copie fisiche, diciamo l'EP girava online, però non erano proprio presentazioni ufficiali, proprio anche per questo. Quindi diciamo questo sarà il primo live in cui possiamo presentare veramente fisicamente il disco, e quindi siamo abbastanza contenti di questo, perché finalmente possiamo, diciamo, proporre definitivamente il nostro lavoro col pezzo di plastica, insomma, col supporto di plastica, che comunque da queste parti almeno è sempre qualcosa di piacevole tenere in mano, ecco. Sì, era una cosa che volevamo fare assolutamente, cioè non poteva rimanere tutto solo online. normalmente magari non è così nel vostro caso, però un EP prelude comunque a una produzione più vasta, più ampia, qualcosa. C'è già in progetto qualcosa in riguardo appunto al estendere l'EP? In teoria sì, però ancora molto ce la stiamo prendendo, diciamo, con calma. Vogliamo ancora giocarci bene in queste EP, e l'obiettivo nostro ovviamente sarebbe far uscire nel giro dei prossimo paio d'anni un album, un LP intero. E però, diciamo, le tracce in teoria ci sono, anche perché comunque anche dal vivo presenteremo anche altre tracce, ne abbiamo parecchie, certo, scritte in questi due anni. E però ancora diciamo ci godiamo queste EP per ora. Okay. Però ovviamente l'idea c'è. Benissimo, va bene, allora diamo quindi l'appuntamento e continuiamo, ascolteremo sicuramente Leaving Me Alone dei Barbed Wire, appena, che significa, sì, sì. Fino spinato. Il nome è un impiccio per tutti, anche per noi. No, vabbè, ma io mi impiccio comunque, insomma, anche sulle cose in dialetto, quindi quelle più familiari, non ti preoccupare, è tutto normale. Che significa filo spinato, eppure questa qui è una cosa che penso abbia un voglia comunicare qualcosa, insomma. Sì e no, diciamo, allora ci sono due motivi principali, diciamo, del nome. Uno più frivolo, diciamo. Mm-hmm. E uno legato sicuramente all'impatto anche che ha il nome, il filo spinato, qualcosa d'aggressivo, ci piaceva proprio l'idea. E quello più stupido, diciamo, è nato dal fatto che in sala proprio ci siamo resi conto che a tutti e tre ci piaceva il wrestling. Sì, il wrestling. Sì, sì. E il filo spinato è un'arma utilizzata negli incontri più estremi, sì, diciamo. Sì. Questo è proprio il motivo proprio di base. Poi da lì ci piaceva comunque perché si legava molto alla musica, che l'impatto della nostra musica comunque, il sound deve essere comunque aggressivo e diciamo ci stava col nostro suono, secondo noi. Va bene, allora sicuramente faremo una puntata sul wrestling e sarà necessario, sì, perché poi è una cosa in realtà, vabbè, dai, faremo una puntata dedicata al wrestling, lo lasciamo così in sospeso. Nel frattempo vi ascoltiamo e ci vediamo tutti e tutte al The Frag sabato prossimo, ok? Dai. Per ora ti ringrazio. Ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Eccoli qua, Barbed Wire. Around My Neck. Il disco e Leave Me Alone, la seconda traccia da questo EP che ci andiamo ad ascoltare da capo, Barbed Wire. Ed eccoci qua. Ci sei? Pronto? Sì, eccoci. Daniele, ciao. Daniele degli Alma, degli Alma Irada. Vuoi allora un po' raccontarci? Abbiamo parlato poc'anzi con Federico del Barbed Wire. E voi siete la, una delle altre due band che suoneranno il 12 per Radio Onda Rossa, in, a sostegno di Radio Onda Rossa, in quel del Defrag. Allora, ci vuoi un po' così raccontare qual è stata l'idea per mettere in piedi questa iniziativa e poi vabbè, parliamo pure un po' di voi e del, della vostra proposta, insomma, di come vi piace suonare, di cosa vi piace suonare. Bene, bene. Sì, allora, l'idea è nata così un po' per caso, diciamo, con i Barbed Wire ci è già capitato di condividere una serata e niente, insomma, loro per noi sono un po', diciamo, il futuro, anche perché sono giovanissimi, sì. E quindi in un momento come questo, dove i giovani si fanno tutt'altro, diciamo, che rock, abbiamo deciso, insomma, di proporgli una serata così. Noi era troppo tempo effettivamente che stavamo un po' fuori, che non facevamo live per vari motivi, anche perché, cioè, in questo momento stiamo scrivendo. E niente, insomma, è nato un po' per caso, anche sapendo, diciamo, della vostra situazione, quindi, insomma, a questo punto facciamolo per una buona causa e divertiamoci per una buona causa, insomma. Bene. Siete tra l'altro ascoltatori della radio, quindi più o meno assiduamente, più o meno. Sì, insomma, chi più chi meno, in fasce orarie diverse, a tutti noi, ognuno più o meno, capita di sentire le vostre trasmissioni. Benissimo. E quindi vabbè, voi invece, diciamo, dal punto di vista invece più squisitamente tecnico, già parlavamo appunto con Federico e dicevamo che comunque la serata, per quanto assortita, nel senso che ognuno di voi poi ha una sua particolare predilezione per un certo modo, un certo stile, un certo modo di suonare, comunque i suoni robusti americani, insomma, cioè, fanno parte del vostro primi anni 2000, diciamo, grunge, post grunge, cioè fanno parte del vostro vissuto, del vostro modo di esprimervi, insomma. Sì, noi nasciamo dal grunge anni 90, però, insomma, un po' reinterpretato in maniera hardcore, quindi un po' più anni 2000, però, diciamo, la nostra connotazione è quella del rumore, insomma, bello spinto, dell'interpretazione, diciamo, hardcore, appunto. Voi avete pubblicato un lavoro comunque non recentissimo, 2-3 anni fa, no? Quando sì, due anni fa, diciamo. Diciamo quasi 2 anni fa, un anno e mezzo fa, quasi due. E poi dicevi, per varie vicissitudini vi siete un po' dovuti fermare, e invece adesso vi siete un po' rimboccati le maniche per cercare di tirar fuori qualcos'altro, a quanto ho capito, magari non in tempi recentissimi, se ci vuoi un po' aggiornare. Sì, la formazione è stata un po' rimaneggiata, abbiamo perso il bassista e, diciamo, voce in alcuni pezzi, lead voice, alcuni backing, comunque sia un pezzo abbastanza importante degli Alma Irada. Sono subentrato io e il nuovo bassista, e quindi, diciamo, il tempi tecnici di assestamento della nuova formazione, sì, insomma, voce nuova, nuovo interprete al basso, quindi ovviamente un minimo di stati c'è dovuto essere, l'abbiamo un po' sfruttata per dei pezzi nuovi e per anche ripensare un pochettino gli Alma Irada, non a livello di sound, ma a livello anche stiamo pensando di, e alcuni pezzi ancora ci intriga la lingua italiana, perché il vecchio disco è tutto in lingua inglese, e sabato sera già presentiamo un paio di pezzi nuovi, visto che ce li abbiamo, stiamo lavorando, diciamo, qualche super inedito lo presenteremo. Perfetto, quindi seratona in cui sentiremo anche gli Alma Irada nella versione, diciamo, futura, quello che potrebbe essere un anticipo, un assaggio di quello che sarà. testi in italiano, anche perché poi mi sembra che appunto chi regala poi una serata alla radio come avete fatto voi, e ve ne siamo, voi e gli altri insomma ovviamente ve ne siamo grati, e evidentemente riconosce alla radio uno scopo, un merito comunicativo importante, e una lingua italiana con cui essenzialmente decidete di comunicare con l'obiettivo della vostra comunicazione sono dei soggetti particolari, insomma mi sembra di capire, certo. Cioè, come dicevamo, per dirlo, sì, per dirlo con le vostre parole, un segnale che disturba, anche un pochettino più diretto in questo caso. Certamente. Va bene, allora vogliamo dare l'appuntamento per il 12, lo vuoi dare te? Certo, ci vediamo, spero numerosi, il sabato sera, sabato prossimo, il 12 al The Frag. Dalle 22 in poi inizieremo a fare tanto, tanto casino e a divertirci tutti insieme. Benissimo, allora ti ringrazio e ci vediamo sabato prossimo. Grazie a te, grazie a voi, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E ovviamente ci ascoltiamo Alma Irata dal disco che si chiamava Deliverance, Alma Irata, Crushed Bones. Shifter. Allora, pronto, ci siamo. Sì. Mentre si sente in sottofondo che comincia ad andare un disco, che poi ci direi come si chiama, ormai è uscito da... ce l'ho qua davanti. Uscito nel 2015, settembre 2015. Allora il disco si chiama Mami la Pitana Pai. E abbiamo già tolto la parte più difficile di tutta la chiacchierata. Esatto. Mi hai tolto veramente dall'imbarazzo, perché. Allora, quindi siamo. Vuoi presentarti? Sì, allora sono il cantante di Pax Armata e sono qui per dire appunto che è importante che veniate sabato prossimo 12, ma l'avrai già detto tu svariate volte, immagino. Sì, l'abbiamo fatto, al, sì, l'abbiamo fatto dire anche agli altri ospiti. Non tanto per noi quanto per gli altri, Almairata e Barbed Wire, e soprattutto per Radio Onda Rossa. Bene, bene. Perché questa modestia, questo mettersi in secondo piano, ce lo vuoi un po' spiegare meglio? No, in realtà è una strategia, perché così mi metto in secondo piano e tutti quanti no, invece, ma voi suonerete per ultimi, così tanto per dare. Lo sai che la scaletta non la sappiamo di preciso, non lo so, credo di sì. Siete, credo, un po' più i vecchietti della situazione. Assolutamente più vecchi, sì, credo di sì. Credo una, di sì. Un'esperienza un po' più lunga e un'attitudine, un modo di suonare, insomma, abbastanza di suonare, di cantare, di dire le cose. Essenzialmente credo che cantiate e dite le vostre cose sempre nella nostra lingua, in italiano. Sì. E lo dite in maniera abbastanza esplicita e abbastanza così diretti al punto, senza sì sai, dici bene l'esperienza, perché l'esperienza poi ti porta a essere sempre più diretto, più pecchi più sei diretto, perché l'hai provate tutte, e poi a un certo punto quando devi dire certe cose, che sono le cose che diciamo nei nostri testi, arrivi a dirle direttamente senza, sempre con minori mediazione, forse usando qualche metafora quando serve per cedere, diciamo, se non altro alla rimica, scrivere testi significa sostanzialmente giocare col linguaggio, quindi con la lingua e col linguaggio, quindi quello c'è per forza, però attraverso quello, insomma, dire le cose come stanno, asciugare, insomma. Vabbè, non vorrei entrare un po' nel tecnico ci prenderemo nel tempo che per farlo, per ora sì. Questa sera la dedichiamo solo alla presentazione della serata, e tra l'altro sento dei rumori, quindi dicevamo proprio oggi parlando così con te che questi rumori ci stanno, perché dove state? Sì, siamo in sala prove, in una pausa, diciamo che ci stiamo facendo belli per voi e stiamo provando appunto la scaletta di sabato. Sì, perché è una cosa così che non sanno proprio tutti e tutte coloro che, anche se tanti e tanti ascoltatori della radio, ascoltatrici della radio, alla fine o perché suonano, perché c'hanno qualche amico che suona, o perché o amica che suona, o perché per varie vicissitudini eccetera, sanno com'è la storia. Però per preparare un concerto non è che se va al concerto e se suona comunque. No, c'è no, tutta una roba prima, che è appunto, vabbè, a parte la produzione proprio in studio dei dischi eccetera eccetera in sala prove, ma anche proprio la presentazione, la preparazione del concerto stesso, con la scaletta, con i pezzi che poi uno farà eccetera eccetera, insomma. Sì, ma non è un regalo da poco quello che ci fate, insomma. Nella fattispecie è proprio una cosa fisica, perché adesso fa abbastanza caldo dove stiamo, quindi è proprio una cosa, sudiamo, e poi quando è prima di una data, insomma, la prova è molto mirata, con la scaletta precisa, quindi è quasi come se fossi lì e tenti di metterti nel climax dell'evento, e questo stiamo facendo adesso. Ora nella fattispecie, guarda, quando proprio ha sentito il rumore che ha sentito, è un aereo, perché noi abbiamo una sala che sta proprio attaccata a Ciampino, la pista d'atterraggio di Ciampino, sì, quindi sì. Hai sentito un aereo, sì va bene, quindi era un Roma, non so cosa, non so dove andare. Ma riuscite però anche live a riprodurre poi questo tipo di effetti? No, l'aereo no però no, magari, guarda, non in maniera uditiva, ma magari se c'è abbastanza gente e ci fa la grazia, possiamo pure planare sulla gente. Questo sì, questo si può provare a fare. Sempre buono nel rock questo. Ascolta, lavoro vostro, che peraltro gli ascoltatori e le ascoltatrici di 25 O'Clock conoscono, perché l'abbiamo un po' ascoltato in lungo e in largo, datato 2015. Sì. Dobbiamo aspettarci perciò una vostra venuta qua negli studi della Radio Onda Rossa per presentare magari anche a 25 O'Clock, per presentare qualcosa di nuovo, oppure ci fate aspettare ancora tanto? Guarda, domani verremo lì negli studi e presenteremo delle cose nuove dalla signora Martis. Esatto, saremo lì con Marta. Benissimo. Allora, sì, allora quindi ci sta una produzione nuova. Troveremo anche del materiale al The Frag, insomma. Sentirete, chi verrà sentirà due o tre cose vecchie, diversi brani nuovi. No, dico a livello proprio di supporti. Di supporti per ascoltare la musica, al di là del web, insomma, e delle varie. Ah, ok, guarda. No, allora, per quanto riguarda i CD, abbiamo quelli vecchi. Per i nuovi bisognerà aspettare un po' per la copia fisica, però sono già disponibili. È imminente, insomma, è imminente. Sì. Non ce la facciamo per sabato, però. No, per sabato no. Va benissimo. Sabato. Ok, allora dai, ci diamo appuntamento tutti e tutte. Lo vuoi dare te l'appuntamento a compagni e compagne per il The Frag 12 maggio? Certamente. Vai. Allora, sabato 12 maggio al The Frag. Noi a Pax Armata più Almairata e Barber Wire per Radio Onda Rossa raccogliamo fondi, insomma, per qualcosa di buono, e quindi venite copiosi. 87.9 della modulazione di frequenza, dai, dici pure questo. 87.9, certo. E non so cos'altro dire, venite, perché soprattutto per il tema della serata, insomma, ci sono tre gruppi che penso che ne valgano la pena, almeno due sicuramente. Non parlo di noi, però almeno due sicuramente. Assolutamente, non c'è spazio solo per scatenarsi sotto il palco, ma anche per pensare con la vostra musica, e parlo di tutte e tre le formazioni. Ti ringrazio. Ok, allora dai, ci diamo appuntamento a sabato prossimo e a presto, a domani, quindi qui sì, con gli ascoltatori, non so se ci sei pure tu, ma con gli ascoltatori a domani. Purtroppo ci vediamo lavoro, poi sabato. Non sai che c'è sta cosa che ogni tanto ci tocca ancora andare a lavorare. Maledetto lavoro, sì. Maledetto lavoro, come direbbe la Furia. Va bene, okay. Ciao, allora a presto. Ciao bello. Ciao. A proposito, Pax Armata, il lavoro rende schiavi. Ronda Rossa, 25 O'Clock. Il lavoro rende schiavi, quando vorrai libertà, la catena di montaggio i tuoi piedi bloccherà. We'll be right back.

punk suona rap, suona forte dalle casse di questa città. Che da noi è veleno come aperitivo. Questa è la nostra musica, punto interrogativo. Questa è la furia, tutto attaccato e punto esclamativo. Appena voce, microfoni che squarciano la notte. Dov'è il defrag? A via delle isole Curzolane 75. Artufello. Appena voce, microfoni che squarciano. A Varmelaina, insomma, come meglio vi piace. Volete ritornelli facili da canticchiare. La furia dritta al cuore, ancora su 16 barre. Appena voce, microfoni che squarciano la notte. Gole urlano, bruciano come bombe. Voi volete ritornelli facili da canticchiare. La furia dritta al cuore, ancora su 16 barre. Appena voce, microfoni che squarciano la notte. Gole urlano, bruciano come bombe. Voi volete ritornelli facili da canticchiare. La furia dritta al cuore, ancora su 16 barre. I take it back. What promise to myself? Coming back home from war can't find me. A new world responsibility. Active. All what it got my hands on. Everything been digging and in stream. I take it back now. Erano gli Os. Quelli the Dying. E invece questi altri ragazzotti qua mandarono il disco qua in radio e avremmo il modo di conoscerli tanti tanti anni fa. Stiamo parlando dei primi anni 2000-2003. Loro vengono da Sondrio, o almeno dalla provincia di Sondrio. Si chiamano SNP, Stato Nervoso Precario. E tutto questo fa scopa con quanto dicevamo prima rispetto al lavoro che rende schiavi. Da capo SNP, Stato Nervoso Precario, dai!